I nomi delle cose, lo spazio di riflessione della coordinamenta femminista e lesbica. Ciao a tutte e ciao a tutti. Questa è la terza cartella del percorso della coordinamenta verso l'8 marzo ed è anche l'ultima e si intitola La legalità e la norma. E come apertura vi vogliamo leggere uno scritto che abbiamo fatto tempo fa, addirittura nel 2010, quando la coordinamenta aveva appena iniziato il suo percorso. È uno scritto breve e pensiamo però che sia ancora quanto mai attuale. Malafede. Uno scrittore francese della fine dell'Ottocento scriveva che se una legge avesse vietato ai ricchi e ai poveri di dormire sotto i ponti, dal momento che i ricchi di dormire sotto i ponti non avrebbero mai avuto bisogno, mentre questo poteva accadere per i poveri, veniva svelata l'inconsistenza della presunta neutralità delle leggi e si chiariva chi le faceva e chi ne era destinatario. L'ipotesi di Anatole France è diventata un incubo. Infatti oggi è tutto un proliferare di ordinanze comunali che vietano e sanzionano di dormire sulle panchine, per strada, sotto i portici, di mendicare e via dicendo. Sempre nell'Ottocento, negli Stati Uniti, era perseguito e condannato chi aiutava o dava rifugio agli schiavi fuggiti. Oggi vale per chi aiuta o ospita le irregolari e gli irregolari, che guarda caso nella stragrande maggioranza come gli schiavi vengono dall'Africa. In quella società c'era chi faceva la legge, chi la eseguiva e chi la rispettava, e poi c'erano quelle e quelli che nell'illegalità aiutavano, proteggevano e ospitavano gli schiavi fuggiti. Ognuno e ognuna scelga in quella società e in questa da che parte stare. Qualcuno o qualcuna potrà dire che viviamo in un'altra epoca e questa è tutta un'altra configurazione sociale. Perciò i paladini della legalità ci dicono che comunque la legge va rispettata, dimenticando che la legge non è altro che la sanzione formale di un rapporto di forza. Un ultimo tassello al revisionismo storico. Ricordiamoci che il nazismo è andato al governo con libere e democratiche elezioni e le sue leggi erano formalmente e sostanzialmente legali. I funzionari nazifascisti erano dalla parte della legalità, gli oppositori nell'illegalità. Colpisce che questo inno al rispetto delle leggi e alla supremazia della legalità avvenga proprio mentre una legislazione invasiva ha reso penalmente perseguibile una miriade di comportamenti, anche individuali, fino a ieri leciti. Tutto accompagnato dall'uso di mezzi tecnologici che hanno reso la nostra vita come quella di animali d'allevamento. Il culto della legalità va di pari passo con il controllo sociale. Sono stati creati i CIE e il concetto di detenzione amministrativa, per cui si è ristretti per condizione e non per reato, ed è stata altresì introdotta la colpa d'autore, per cui non sei perseguito o perseguito per quello che hai fatto, ma per quello che sei. Guarda caso, i cultori della legalità si esaltano in questo contesto. Costoro sono dimentichi oltretutto di ogni più elementare lettura della storia. Anche questa società è figlia dell'illegalità, perché tale è stata la rivoluzione francese, tali sono stati i moti del 48. Sempre che non vogliamo credere, come dicono le multinazionali, quelle anglo-americane in prima fila, che la storia è finita. La società delle multinazionali si è autoproclamata Dio e ha deciso che non ci sarà altra società all'infuori di questa. I gran sacerdoti di questa nuova religione sono gli pseudo-intellettuali, gli economisti stregoni, gli accademici di ogni risma, i media, i partiti di ogni colore, ma niente qualunquismo, la politica è il motore della vita sociale. E i missionari sono gli idolatri della legalità. A proposito, questi idolatri della legalità, ma la sanno la differenza tra legalità e legittimità? C'è un diritto alla vita, all'integrità fisica, all'accesso alla sanità, all'istruzione, all'autodeterminazione e alla felicità che nessuna legge umana al servizio di chi la promulga, perché di questo si tratta, potrà mai conculcare. Dietro questa cultura della legalità c'è un progetto che si propone di creare persone docili e sottomesse. Non per niente si teorizza l'insegnamento della legalità fin dai primi anni della scuola, che pensino solamente a lavorare e a consumare. Ma noi femministe abbiamo la memoria lunga e sappiamo quanto dolore il feticcio della legalità ha portato nella vita delle donne. Non vogliamo ruoli, ma soggetti liberi. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. E allora è proprio così. La legge è la sanzione formale di un rapporto di forza. È fatta da chi detiene il potere ed è destinata alle oppresse e agli oppressi, alle subalterne e ai subalterni. E infatti noi sappiamo quanto male e quanto dolore hanno portato e portano le leggi nella vita delle donne. Senza andare tanto lontano nel tempo, perché altrimenti dovremmo parlare di tutte le leggi che nei secoli ci hanno costrette a forza nel nostro ruolo con pene severissime, ostracismo e morte, ci basta andare indietro di pochi anni, se per caso dovessimo avere la memoria labile, oppure riflettere su quello che sta succedendo adesso. Per esempio, potrebbe sembrare che quella che viene chiamata emancipazione femminile sia un percorso lento ma ineluttabile, no? Se guardiamo agli aspetti più esteriori. Invece non è affatto così, perché le conquiste sono il frutto delle lotte e non solo non sono per sempre, ma possono essere annullate molto facilmente. Basta una nuova legge, in un contesto in cui i rapporti di forza sono cambiati. Non è l'evoluzione che fa la storia, sono i punti di rottura. E diciamo che la normalizzazione è un'esigenza primaria di chi detiene il potere, perché e poi più il potere è autoritario e più c'è un proliferare di leggi e di norme che costringono e soffocano anche la quotidianità. Ed è infatti necessario smascherare quella che è l'essenza dello Stato autoritario, cioè la richiesta di ordine e di legalità, che in questo momento infatti è diventata debordante. E ci si dimentica che lo Stato possiede il monopolio della forza e che pretende legittima e la esercita in maniera tale che la forza dallo Stato esercitata è quella legale perché legalmente convalidata, no? Quindi adesso la rilegittimazione si presenta come una necessità prioritaria per il capitale e ha due percorsi che poi di fatto sono la stessa cosa, cioè si dispiega attraverso il neocolonialismo nei paesi del terzo mondo e nel disciplinamento e nella colonizzazione del quotidiano e dei territori qui da noi nella società occidentale. Adesso poi assistiamo a uno spostamento importante verso lo Stato etico, cioè uno Stato che si arroga il diritto di decretare per noi quello che è buono e quello che non è buono, quello che è male e quello che è bene, quello che possiamo fare e quello che non possiamo fare, sempre per il nostro bene. E noi dovremmo adeguarci e dovremmo essere felici che qualcuno ci tuteli e ci guidi dall'alto. È lo Stato etico di nazista memoria, in cui lo Stato si arroga il diritto di essere qualcosa che guida i cittadini e li educa al bene. Got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind, I ain't got no country. Ain't got no friends, ain't got no nothing, ain't got no water, ain't got no air. Quindi la modalità esterna e diretta con cui si muove questo stato è quella delle leggi, di una legislazione invasiva, capillare e molto violenta anche rispetto ai comportamenti personali. Però c'è un'altra gabbia o un altro insieme di gabbie che ci rinchiudono in questa società e che sono praticamente molto più sottilmente perverse, molto pericolose, e che sono quelle costituite dai segni ideologici e culturali di questa società patriarcale borghese, che sono veicolati attraverso la sua egemonia culturale. Ed è una gabbia che hanno costruito e l'hanno chiamata normalità. Per cui che cosa succede? Che noi pensiamo di vivere la nostra normalità e invece questa nostra normalità che viviamo non è altro che l'esecuzione automatica e inconscia molto spesso di alcune cose ci rendiamo conto e di alcune cose non ci rendiamo conto, però della programmazione che il capitale ha fatto per noi. E l'ha costruita per noi. Una delle gabbie più evidenti sono i ruoli sessuati, però la società è fatta di tutta una serie di gabbie che modulano il nostro comportamento, tra virgolette, normale, no? E appunto non è soltanto una gabbia, è un sistema di gabbie in cui ognuna di noi è chiusa. E questo sistema di gabbie è fatto di no non solo di leggi, ma anzi di norme, di stereotipi, di convenzioni, di ritualità, di normalità, di giudizi, di condanna sociale, no? Che ogni tanto sentiamo epidermicamente che qualcosa non va, ma spesso abbiamo introiettato tutte queste gabbie, tutto questo insieme di normalità in maniera inconsapevole anche per noi stesse, e noi cerchiamo di prenderne coscienza, di combatterle tutti i giorni, di andare alla radice, di tirarle fuori. Di non farci coinvolgere, non farci tritare, però e certe volte riusciamo a spezzarne qualcuna, no? Diciamo, ah, finalmente mi sono liberata di questo, oppure abbiamo questa sensazione netta finalmente di esserci liberate da una gabbia. E anche con la discussione, col rapporto tra le compagne, col fare politico, no? Però non è facile, perché spesso ci accorgiamo che quando siamo scappate da una gabbia oppure siamo riuscite a spezzarla, ne troviamo un'altra e sembra un perverso gioco di scatole cinesi, no? Una dentro l'altra, una dentro l'altra. E questa è un'operazione chiaramente voluta. Ed è molto, molto violenta. Inoltre è successa anche un'altra cosa, cioè l'operazione che ha portato avanti in questi anni la socialdemocrazia per conto del sistema, cioè che si è fatta carico di naturalizzare il neoliberismo, quindi l'operazione con cui ha portato avanti la propaganda di concetti come legalità, rispetto dell'autorità, sacralità delle istituzioni, delle figure pubbliche, non violenza, riproposizione del concetto di patria, di nazione, di convivenza civile. Beh, questa operazione ha ottenuto il risultato non soltanto di far dimenticare che la società è divisa in classi, ma anche di far perdere completamente il significato di parole come legge, democrazia, no? Che ci vengono propagandate come il massimo della positività e invece non sono altro che la veste pubblica che si dà questo sistema di potere. Quindi ci hanno fatto dimenticare dove siamo infilate, ci hanno fatto dimenticare chi ha il potere, ci hanno fatto dimenticare che la società è divisa in classi e facendoci dimenticare questo, hanno anche avvilito, svilito eliminato, non dico eliminato, ma comunque soffocato moltissimo la capacità reattiva, no? La chiarezza politica e la capacità di leggere quello che succede, poi porta magari a prendere delle posizioni e a reagire. Invece il riportare tutto a una melassa indistinta, a far perdere i riferimenti politici, porta da una parte al disamore per il fare politico e dall'altra proprio all'incapacità di comprensione. E quindi che cosa è successo? Che le persone, nel comune sentire, è passato che tutta una serie di comportamenti che vengono definiti illegali e delinquenziali non sono altro che comportamenti che fino a poco tempo fa erano rivendicati come comportamenti politici. Per esempio, chi non può pagare le bollette si sente ed è percepito e si sente come un delinquente. Rifiutarsi di pagare le tasse è addirittura foriero di una scomunica sociale, quasi che pagare le tasse fosse un obbligo che viene da un'entità superiore, cioè un Dio al di sopra delle nostre capacità di comprensione, che ci fa capire che questo è un obbligo morale. Addirittura una volta si facevano le manifestazioni e si tornava e nessuno pagava, a nessuno veniva in mente di pagare il biglietto del treno. Invece adesso, se al ritorno di una manifestazione i gruppi di manifestanti vogliono salire sul treno e non pagare il biglietto, questo provoca una calata degli agenti antisommossa e comunque scenari di pericolosità sociale. Allora, che cosa significa? Cioè, come possiamo reagire? Come possiamo cercare di scardinare questa organizzazione sociale? Il neoliberismo è guerra che ci viene imposta e investe la vita di tutte e di tutti. Non è possibile sottrarsi a questo scenario cupo senza pensare a una rivoluzione continua, cioè che una rivoluzione nel quotidiano che coinvolga tutti gli strati, gli ambienti, i ceti, i generi che si oppongono a una prospettiva così mortifera. Questo significa che in tutti gli attimi della nostra vita la scelta è tra rimanere in questa società e uscirne. Anche nelle azioni più spicciole ci dovremmo chiedere se vogliamo rimanere qui dentro o uscirne. Cioè è una tensione che ci dovrebbe accompagnare sempre, proprio perché mai come in questo momento patriarcato e neoliberismo lavorano profondamente aggredendo ogni aspetto della nostra vita. La scommessa è di capire chi a tutto questo si oppone e chi tutto questo invece promuove o di questo si fa complice, magari per convenienza, tornaconto personale, promozione sociale. Invece noi abbiamo bisogno di un progetto che sia capace di, o che provi. Noi non abbiamo niente di bello fatto impacchettato. È una tensione, è una speranza, che provi a scardinare i momenti nodali di questa società su cui si impone, si imposta la scala di valori neoliberista di cui è parte, cercare di scardinarli in ogni a un fratto più piccolo, il neoliberismo si innesta e si infila in ogni fratto più piccolo. Bene, noi dovremmo cercare di scardinare in ogni fratto più piccolo, cioè ogni qualvolta ci si presenta, ogni volta che noi compiamo un'azione in questo vivere quotidiano soffocante e soffocato, noi ci dovremmo chiedere se vogliamo stare qui dentro o vogliamo uscirne.